La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato ai Valani, bambini e ragazzi che tra il 1940 e il 1960 venivano venduti come merce al mercato per essere impiegati nelle campagne. Ospite ai nostri microfoni Elisabetta Landi, autrice del libro Il mercato dei Valani a Benevento, pubblicato da EDS. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Tra il 1940 e il 1960, nel giorno dell'Assunta, si svolgeva a Benevento, nella piazza adiacente al Duomo, un vero e proprio mercato, con esposizione e vendita di manodopera. In gran parte si trattava di ragazzi e bambini da adibire ai lavori nelle campagne. Un mercato abusivo, naturalmente illegale, e tuttavia per anni tollerato, che si basava su una sorta di patto orale tra i genitori di quelli che sono stati definiti i Valani e gli agricoltori più abbienti. Il termine Valano, scrive Elisabetta Landi nel libro Il mercato dei Valani a Benevento, pubblicato da IDS, stava a indicare lo stalliere, il bifolco, l'addetto al bestiame. Nell'Italia di quegli anni, famiglie contadine poverissime e numerose non trovavano altro sistema che quello di cedere in affitto, per così dire, i propri figli. Fino alla fine degli anni 50 del secolo scorso, le famiglie dei contadini poveri che volevano collocare un figlio al lavoro conducevano i propri maschi, già dall'età di 7-8 anni, sul sagrato della chiesa e nella adiacente piazza Orsini, dove un proprietario terriero, un enfiteuta e chiunque avesse avuto bisogno presso il proprio feudo di un garzone, di un bifolco, di un pastore, di un guardiano di capre e maiali, poteva sceglierne tra quelli esposti, visionarne la dentatura, osservarne le mani, valutarne la forza e la capacità fisica e infine pattuire oralmente con i genitori le condizioni e le modalità di ingaggio. Una volta scelto il ragazzo, spesso riconoscibile per un fazzoletto legato al braccio, una penna di uccello sul cappello di paglia o un bastone, l'acquirente stabiliva le condizioni, spesso con la mediazione di un sensale. Una vera e propria contrattazione, dunque, al di fuori di ogni regola. L'acquirente elencava le norme da rispettare, il tipo e il numero di animali da accudire, i compiti da svolgere all'interno della tenuta agricola. L'elenco comprendeva anche l'indicazione del luogo dove il ragazzo o il bambino avrebbe consumato i pasti, spesso nella stalla con gli animali, ma anche le ore di riposo, le uscite annuali, le visite dei familiari. I Valani, adulti o bambini che fossero, dormivano tutti nelle stalle. Ai più piccoli era riservata la mangiatoia. Nel corso della trattativa, cui assisteva anche una folla di curiosi e di faccendieri che prendeva le difese dell'una o dell'altra parte, i padroni stabilivano con i genitori il compenso da corrispondere alla famiglia per un anno di lavoro. Sacchi di grano e qualche centinaio di lire per i minori, mentre il compenso era più alto per gli adulti. A quel punto i Valani restavano per un intero anno, dall'8 settembre all'8 settembre successivo, nella tenuta del padrone che con la sola pattuizione orale si impegnava ad assicurare loro un giaciglio e il vitto giornaliero. Nella piazza affollata, con lunghe dissertazioni sulla qualità e docilità dei propri figli, le madri e i padri cercavano di raggiungere con i padroni la migliore intesa possibile. Disposti a piazzare i propri figli prima della fine della giornata, tutti negoziavano fino ad affare concluso. Su questo assurdo mercato di minori non vi è mai stato un grande interesse da parte degli storici, scarse se non addirittura inesistenti le fonti. L'unico modo per cercare di ricostruire questa vera e propria tratta è stato quello di affidarsi alle testimonianze orali. Ed è proprio quello che ha fatto Elisabetta Landi, ricercatrice di canto e tradizioni orali, nel mettere a punto la ricerca che ha dato origine al libro. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. La prima domanda è proprio questa: per quale motivo non se ne sa granché di questo assurdo mercato che in fondo si è sviluppato proprio non nel Medioevo, se vogliamo essere sinceri? Io credo personalmente che sia stata una volontà politica a determinare la come dire, il silenzio sulla vicenda. Credo allo stesso modo che vada distinta la mancanza di oggetto documentale, quindi di documentazione, e quella di una scrittura storiografica al riguardo. Il mercato dei Valani veniva considerata una consuetudine praticata tra padrone e servo, che in qualche modo manteneva e consentiva il mantenimento degli equilibri sociali. Non si è mai avuta una piena consapevolezza di che cosa fosse e di quanto grave fosse la compravendita, soprattutto della manodopera minorile. E per quanto riguarda il periodo successivo, quello che si può definire in qualche modo successivo all'estinzione, quindi alla fine del mercato, sicuramente c'è stata una volontà, insomma, politica e amministrativa di nascondere questa pratica. Ma quando ebbe fine questa compravendita? La compravendita, la pubblica esposizione ebbe fine nella seconda metà degli anni 50. La pratica invece di collocare i figli maschi al lavoro dura fino alla prima metà, insomma, degli anni 60. Ne è testimonianza addirittura un filmato Rai che purtroppo non è stato possibile più recuperare perché non archiviato, non catalogato correttamente nelle teche Rai. Ho capito. Adesso ci spieghi come si è svolta la sua ricerca, quali difficoltà ha incontrato, immagino enormi, nel farsi anche raccontare episodi che magari molta gente voleva in qualche modo rimuovere, forse. Allora, io ho avviato questa ricerca un po' per caso, perché più che alla ricerca di notizie relative al mercato vero e proprio, di cui non sapevo assolutamente nulla, stavo realizzando delle registrazioni sul campo per alcune indagini sul canto di tradizione orale, che è poi quello di cui mi occupo più nello specifico. Per cui in una casa contadina, intorno alla fine degli anni 90, forse proprio del 99, sento per la prima volta la parola Valano. Non ho notizia del mercato, ma ho notizia di questo termine, che mi incuriosisce per il fatto che io ho, come dire, una conoscenza piuttosto approfondita della lingua dialettale di questa zona, e chiaramente avendo trascorso molto tempo insieme ai contadini di questa area geografica, ma per lo più dell'Appennino campano, non avevo mai sentito prima. Per cui così per caso comincio a capire di che cosa si trattasse e do l'intuizione relativa però ad una sorta di adozione dei bambini delle famiglie molto povere. Questa intuizione mi porta a sapere di una pratica che è quella del 15 agosto e di un mercato il giorno dell'assunta. Da qui comincio l'indagine e nella prima fase soprattutto di questa ricerca non ritrovo nessun elemento che mi possa condurre ad un mercato, per cui per i primi mesi o addirittura nel primo anno, perché questa ricerca è durata circa 3 anni, insomma, diciamo 3 anni di duro lavoro, di lavoro svolto giorno per giorno, mi accorgo che forse questo mercato non era mai esistito. Anche perché, mi scusi, non essendoci nulla di scritto, perché come abbiamo ascoltato e lei ci ha ripetuto, queste pattuizioni avvenivano oralmente e non essendoci nulla di scritto, e quindi le fonti non possono che essere ormai soltanto quelle orali. Esatto, io appena avuta la notizia di bambini dati in affidamento al padronato agricolo, ho cercato subito, come dovrebbe essere la pratica di uno storico, ho cercato subito documentazione scritta e l'oggetto documentale, per cui la prima cosa che ho fatto è stato cercare il contratto agrario o quantomeno una carta scritta anche nelle case contadine, molti dei quali conservano i contratti di enfiteusi, conservano i contratti di affitto. Nelle case contadine ho cercato una scrittura anche privata, che chiaramente non ho trovato, ma non ho trovato né nelle case private né in tutti quanti gli archivi che ho consultato, che non sono stati soltanto gli archivi, appunto l'archivio di Stato o gli archivi comunali, le deliberazioni comunali, ma sono stati anche quelli della CGL, della Camera del Lavoro, della Coldiretti, archivi praticamente inesistenti, completamente smembrati, completamente dimenticati nelle varie sedi che poi purtroppo nel corso del tempo sono state abbandonate. Eppure sembra un po' incredibile che nell'Italia della fine degli anni 40 o all'inizio degli anni 50, quando il paese supera in qualche modo il trauma del dopoguerra e si avvia a diventare un paese moderno, industriale, ci sia questa pratica e nessuno dica nulla, cioè le autorità ma anche i sindacati. Questo esatto. è un po' assurdo. Allora, diciamo che forse il problema è stato proprio il periodo immediatamente post-bellico, cioè il fatto che questa pratica si sia di nuovo dopo il periodo fascista radicalizzata sui territori delle piccole città della Campania, testimonianze certe si hanno adesso chiaramente a Benevento, ma anche nella provincia di Avellino, a Grotta Minarda e ad Ariano Irpino, si siano radicalizzate proprio perché c'è stata una totale disattenzione nei confronti delle cosiddette classi subalterne. Io chiaramente nel testo non ho riportato tutti gli scritti o i risultati delle ricerche fatte anche in ambito locale, però chiaramente ho visionato e verificato di che cosa si occupasse l'amministrazione locale, mentre centinaia di bambini venivano venduti nell'Agorà cittadino, no, a Benevento ma anche altrove. Si occupavano della ricostruzione, si occupavano dell'urbanistica, si occupavano di dover ricostruire materialmente le città, di dover riorganizzare le strutture urbanistiche e architettoniche della città. D'altra parte invece i sindacati, ma in particolar modo i partiti della sinistra, prestavano maggiore attenzione e questo è lo dico per aver letto la documentazione e le deliberazioni della Camera di Lavoro, prestavano maggiore attenzione alle pochissime rappresentanze operaie della zona e poco invece prestavano attenzione ai contadini, che invece divennero l'oggetto di riflessione della Coldiretti e quindi di una parte della destra o quantomeno del centrodestra. Bene, grazie Elisabetta Andi e complimenti per questo interessante libro, Il mercato dei Valani a Benevento. Buona serata.